Il Signore disse a Mosè: «Ordina ad Aronne e ai suoi figli: questo è il rituale dell'olocausto. L'olocausto rimarrà sul braciere dell'altare tutta la notte fino al mattino, e il fuoco dell'altare sarà tenuto acceso. Il sacerdote rivesta la sua tunica di lino e indossi i calzoni di lino. Prelevi le ceneri dell'olocausto che il fuoco ha consumato e le metta accanto all'altare. Svesta i suoi abiti e rivesta abiti diversi, e porti le ceneri fuori del campo in un luogo puro. Il fuoco dell'altare che consuma l'olocausto non si spenga. Il sacerdote vi aggiunga legna ogni mattina, vi disponga l'olocausto e vi faccia fumare il grasso dei sacrifici di comunione. Un fuoco perenne arda sull'altare, non si lasci spegnere. Questo è il rituale dell'oblazione. I figli d'Aronne la offrano alla presenza del Signore sull'altare. Se ne prelevi una manciata di fior di farina con il suo olio e con tutto l'incenso che sta sull'oblazione, e lo si faccia fumare all'altare come profumo gradevole, memoriale dell'oblazione al Signore. Quanto resta di essa, preparato come pane azzimo, lo mangino Aronne e i suoi figli in luogo sacro, nel cortile della tenda del convegno. Non si cuocia con fermento la parte che ho dato a loro fra i miei doni, è sacrosanta, come il sacrificio espiatorio e come il sacrificio di riparazione. La mangi ogni maschio fra i figli di Aronne. Legge eterna per tutte le vostre generazioni. Chiunque la tocca viene a trovarsi in stato di consacrazione». Il Signore disse a Mosè: «Questa è l'offerta che Aronne e i suoi figli offriranno al Signore il giorno della loro unzione: un decimo di efa di fior di farina come oblazione perpetua, metà la mattina e metà la sera. Sia cotta alla piastra con olio. La porterai impastata. La pasta dell'oblazione la offrirai tagliata a pezzi, profumo gradevole al Signore. Anche il sacerdote fra i suoi figli che avrà ricevuto l'unzione per succedergli farà quest'offerta. È legge eterna. Per il Signore la farai fumare completamente. Ogni offerta fatta dal sacerdote sarà un sacrificio totale. Non se ne potrà mangiare». Il Signore disse a Mosè: «Parla ad Aronne e ai suoi figli e di loro: ecco il rituale del sacrificio espiatorio. Nel luogo in cui si immola l'olocausto, si immoli il sacrificio espiatorio alla presenza del Signore. È cosa sacrosanta. Lo mangi il sacerdote che compie il sacrificio espiatorio. Il luogo sacro sia mangiato, nel cortile della tenda del convegno. Qualsiasi cosa ne tocca la carne viene a trovarsi in stato di consacrazione, e se si spruzza un po' del suo sangue su un vestito, quello su cui è stato spruzzato sia lavato in luogo sacro. Il recipiente di coccio in cui è stato cotto sia rotto, e se è stato cotto in un recipiente di bronzo, questo sia sfregato e lavato nell'acqua. Ogni maschio fra i sacerdoti lo mangi, è cosa sacrosanta. Però nessuna vittima espiatoria di cui una parte del sangue è portata nella tenda del convegno per fare espiazione in luogo sacro sia mangiata, sia bruciata col fuoco».